vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 11 settembre, il sole in regione sorta alle 6.46 e tramonterà alle 19.27. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Non ci sono solo emergenze e allarmi in agricoltura, c'è anche chi pensa e si occupa di progetti per il futuro. È il caso dell'iniziativa Oscar Green di Coldiretti, che da 16 anni promuove un concorso per progetti e idee innovativi. Oggi conosciamo i vincitori delle 6 categorie. Per la rubrica del bio, un'analisi del cambiamento climatico che si è fatto sentire quest'estate, anche per capire se sia il caso di adottare da subito alcune contromisure. La serie dedicata al vino oggi incontra i precursori che nella fermentazione sono responsabili dei vari aromi, per passare dopo ad una nuova rubrica che dedichiamo alla figura e al lavoro dei forestali in Friuli Venezia Giulia. La rubrica dell'orto si occupa invece dei lavori e raccolti da fare nel mese di settembre, un mese di transizione, mentre in quella della gastronomia, prima puntata dei cibi tradizionali che vanno scomparendo. Oggi gnocchi di susine. Mercati agricoli, previsioni del tempo con una nota di climatologia locale e il proverbio della settimana chiudono la puntata. Riprendiamoci il futuro, questo è il tema di quest'anno di Oscar Green, il concorso, chiamiamolo così, per inventori giovani in agricoltura. Ne parliamo con Elisabetta Tavano, che è la segretaria del gruppo Giovani Impresa di Coldiretti. Ha avuto successo anche quest'anno come partecipazione? Sì, anche quest'anno grande successo per il nostro concorso. Abbiamo recuperato, diciamo, una cinquantina di iscrizioni in tutta la regione, quindi si parla comunque di iscrizioni di aziende giovanissime e nuove, quindi ogni anno avere una cinquantina di iscrizioni vuol dire che i nostri giovani in agricoltura ci credono e investono. C'è un filo conduttore a tutti i vari progetti? Filo conduttore assolutamente, si parla di sostenibilità, si parla di economia circolare, ma si parla anche in chiave innovativa con un occhio rivolto sempre al passato. 6 finalisti, andiamo a conoscerli. 6 finalisti per 6 categorie. Allora, abbiamo la categoria Campagna Amica, che è la categoria che promuove quello che è il Made in Italy e nel nostro caso il Made in Friuli Venezia Giulia. Vince l'agribirrificio Borgo Decimo di Azzano Decimo con un progetto dedicato allo sviluppo lento, ossia una birra ricreata con i tempi lenti dell'agricoltura di un tempo. Dopodiché abbiamo la categoria Coltiviamo Solidarietà per i progetti di solidarietà, dove ha vinto l'azienda agricola Samsa, che da sempre con la sua fattoria sociale segue i ragazzi con varie disabilità. Custodi d'Italia, agricoltura eroica, 2 sorelle di Sappada giovanissime che hanno riscoperto un formaggio tipico di Sappada, presidio di Slow Food. Energie per il futuro e sostenibilità, la cantina sociale di Casarsa con un vino biologico totalmente riciclato dalla bottiglia all'etichetta fatta con i residui dell'uva. L'impresa digitale, quindi quelle imprese fortemente digitalizzate, i fratelli Paolitti di Pocenia con la spirulina totalmente biologica, totalmente friulana e totalmente da energia pulita. E poi alla fine c'è il vincitore. Esattamente, alla fine anche quest'anno siamo felicissimi e onoratissimi di avere un finalista che andrà alle finali nazionali a Roma per la categoria fare filiera, Marco Tonuti dell'azienda agricola Tonuti di Marco di Adegliacco, con un progetto che si chiama Giardino del Refosco, Refosco Collection, che volge a unire quelli che sono antichi vitigni di Refosco, la ciclovia Alpe Adria, la musica e la storia in una sorta di arena naturale dove i turisti possono andare, diciamo, ad ammirare tutte queste cose. E cosa si vince? Si vince fama, notorietà, no, allora i nostri ragazzi gli diamo una targa simbolica e poi naturalmente, voglio dire, li appoggiamo e li sosteniamo nel loro percorso. E il finalista nazionale, oltre appunto andare 2 giorni a Roma, a essere protagonisti anche insomma delle grandi trasmissioni e quant'altro, vincono un master di 6 mesi, se non ricordo male, in comunicazione e marketing, che può aiutarli insomma nello sviluppo sviluppo dell'idea imprenditoriale. L'anno scorso è stata quasi sfiorata la vittoria nazionale. L'anno scorso siamo arrivati sul podio per pochissimo, ci abbiamo creduto fino alla fine con Andrea Muner che coltiva arnica montana, siamo arrivati alla finale e per un soffio hanno vinto altri ragazzi, però comunque è stata un'esperienza molto bella, insomma, e il progetto valeva veramente la pena. Cristina Micheloni fa un'analisi dell'estate delle emergenze che dovrebbero insegnare qualcosa per essere meno vulnerabili alle prossime evenienze avverse. Emergenza è stata la parola d'ordine per gli incendi, per la siccità, per i picchi di calore, per i costi dell'energia e dei fertilizzanti, per l'irreperibilità dei pezzi di ricambio e di tutto ciò che serve per la meccanizzazione, per l'aleatorietà e imprevedibilità dei mercati globali, fino ad arrivare alle zanzare con i virus che si possono portare appresso. Non ci sono bacchette magiche per risolvere tutto questo, ma sistemi per prevederlo sì, certo con un margine di incertezza, così come ci sono gli strumenti per prepararsi e parare il colpo, almeno in parte, fatti di innovazione, ma anche di razionale, tecnica, agricola classica. Tanto per illustrare il tutto con qualche esempio. Alla siccità, che però va considerata assieme alla problematica delle temperature e non come variabile a sé, si può reagire con tubi e invasi, però bisogna essere certi che poi ci sia l'acqua da farvi scorrere dentro, l'energia per alimentare le pompe e gli euro per pagare tutto ciò, oltre che la disponibilità ad accettare qualche non trascurabile effetto negativo sull'ambiente. Oppure si può lavorare sulla sostanza organica del terreno, potentissima spugna in grado di conservare 340 ettolitri di acqua ad ettaro per ogni punto percentuale. Si può lavorare anche sulla scelta delle colture da far crescere e mangiare, mais e soia per le vacche e le galline o ceci e miglio per gli umani? Su quella cosa che i dotti chiamano infrastruttura ecologica, ovvero alberi, siepi, fasce inerbite, terreni coperti da vegetazione, che agisce contemporaneamente anche sul microclima, attorno alle colture e sulla temperatura del suolo. Ci preoccupano i costi di produzione del latte, sottoscopa per gli aumenti su energia e granelle che fanno il giro del globo? E se invece alle vacche si ricominciasse a dar da mangiare erba, in tutte le sue forme, fermentata e essiccata fresca? Magari facendo spostare non tanto le granelle attraverso gli oceani, ma gli animali sulle montagne e sulle colline regionali. Vero, anche i foraggi hanno patito il secco, però anche qui si può ragionare su suolo, specie e soprattutto vocazionalità dei territori. In Malga ci sono state carenze d'acqua, ma molto meno che in pianura. Andare sui mercati globali comporta elevatissimi rischi? Vero, ma diciamo che fa parte del gioco, quello stesso gioco che definisce il costo delle materie prime. Alternativa è giocare a qualcos'altro, come la costruzione di mercati locali con accordi di lungo periodo tra agricoltori, stoccatori, trasformatori e tutti gli altri, fino ad arrivare al consumatore, o magari saltando tutto questo. Ah sì, il consumatore è preoccupato, distratto dall'estate in cui ha riconquistato la libertà, è sempre più povero? Non è proprio così, comunque l'unico strumento è l'informazione, assieme alla cultura una delle poche cose di cui non ce n'è mai abbastanza. Ma l'estate dell'emergenza che sta tramontando ci traghetterà in un autunno della saggezza fatto di prevenzione, lungimiranza e visione d'insieme? Non credo, ma questa è una scommessa che perderei volentieri. Intanto vi preannuncio che il 23, 24 e 25 settembre ci sarà in regione un bel weekend tutto dedicato al biologico, da conoscere e assaggiare. Continua l'analisi dei processi fermentativi dei mosti in cantina. Oggi il professor Zirone ci parla dei precursori presenti nell'uva che determinano gli aromi principali. Gli aromi fermentativi sino ad ora descritti non sono caratteristici del vino, ma comuni di tutte le attività fermentative condotte dai microrganismi su diversi substrati zuccherini utilizzati per la produzione delle diverse bevande alcoliche, quali il vino, la birra e il sidro. Parte degli aromi caratteristici dei diversi vini derivano invece da precursori presenti nell'uva. I terpeni dell'uva esistono principalmente sotto forma legata agli zuccheri, in forme non aromatiche. I descrittori di queste molecole sono fiori e frutti, rosa, mughetto, citronella, timo, salvia, lici. Oltre ad essere presenti in grandi quantità nelle cosiddette varietà aromatiche, quali moscati, malvasie e traminer, sono rilevabili anche in varietà con aromi terpenici meno intensi. I lieviti sono in grado di liberare terpeni in funzione della diversa capacità enzimatica specifica del ceppo di lievito stesso. Un terpene particolare che contribuisce alle note speziate ed in particolare alla nota di pepe nero è il rotondone, presente in molti vini rossi tra cui il friulano schioppettino. I norisoprenoidi sono prodotti della degradazione enzimatica dei carotenoidi, ugualmente presenti nelle uve sotto forma di precursori glucidici. Svolgono un ruolo di esaltatore dell'aroma fruttato e delle note di violetta. La fermentazione è un passaggio chiave per la concentrazione finale di norisoprenoidi. anche se uno di loro, il TDN, con evidente odore di cherosene, nella vinificazione del vitigno Riesling può, se troppo concentrato, diventare un difetto aromatico. I tioli varietali sono composti dallo zolfo che si trovano nell'uva sotto forma di precursori contenenti amminoacidi o peptidi che durante la vinificazione possono essere assimilati dal lievito rilasciando composti odorosi con soglie di percezione molto basse. I tioli più rappresentativi sono responsabili degli aromi di ribes nero, di bosso, la famosa pipì di gatto, di pompelmo e di frutto della passione. Oltre a caratterizzare il Sauvignon Blanc, si trovano anche nel friulano, nel verdicchio, nella garganica, nel catarratto e nel grillo. Anche in molti vitigni a bacca rossa, come Merlot, Syrah, Grenache e Malbec, caratterizzano particolarmente i vini rosati da essi prodotti. La temperatura di fermentazione assume un ruolo chiave nella liberazione di questi aromi, in quanto le temperature più basse deprimono l'attività fermentativa e anche la velocità di assimilazione dei composti azotati organici. Infine, le alchime tossipirazine giocano un ruolo chiave nell'aroma del vino per il loro contributo alle note erbacee e vegetali. Non sembra che nella fermentazione alcolica, nella fermentazione malolattica, abbiano alcun effetto significativo sulla concentrazione di questi composti nel vino prodotto, che dipenderà quindi prevalentemente dal livello di maturità delle uve vinificate. Vita nei campi si è sempre occupata di boschi e alberi e questo potrebbe essere il titolo della nuova rubrica che dedichiamo a questo mondo. Lo facciamo assieme al Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia che ci condurrà in questo viaggio. Il direttore del Corpo Forestale è Rinaldo Commino. La regione ha 330.000 ettari, una struttura regionale basata sugli ispettorati, su un servizio centrale e le stazioni forestali, un'attività di vigilanza ma anche una funzione tecnica fondamentale, anche come si è visto in questo scorcio dell'anno durante l'estate in tema di antincendio. Quindi l'investire in questa struttura, in questo personale, sicuramente è il migliore investimento che possiamo fare per contribuire insieme agli enti territoriali, ai liberi professionisti e alle imprese alla gestione di questo preziosissimo bene che è la foresta. Compagno di viaggio sarà Dario Di Gallo, ispettore del Corpo Forestale Regionale, comandante della stazione forestale di Gemona. Cosa ci racconterà? Cercheremo di descrivere nei dettagli e in generale quella che è la funzione nel territorio del Corpo Forestale Regionale e descrivere dai monti al mare tutte le caratteristiche del nostro servizio che è volto a tutelare il territorio a 360 gradi in tutti i suoi aspetti e a far capire quanto è importante per la collettività questo tipo di attività, perché nel profondo, diciamo, del territorio noi garantiamo una tutela a 360 gradi di tutte quelle che sono le problematiche di gestione dell'ambiente naturale nella nostra realtà regionale. Una realtà che quest'anno, quest'estate, vi ha visto molto impegnati. Quest'anno è stato un anno veramente difficile per quanto riguarda l'estate, perché abbiamo avuto una situazione con gravissimi incendi, in particolare nell'area carsica, ma non solo, perché ne abbiamo avuti anche nell'alto territorio della montagna. Quest'anno la particolare secchezza della stagione è stata foriera di una situazione molto pesante, eccezionale, e che ha portato alla luce quella che è una grave problematica, che è quella di una gestione del territorio attenta e profonda per quanto riguarda le problematiche proprio della generale della gestione di questo ambiente, di questo mondo. Settembre è mese di transizione in orto e Sara Bosco ci dice cosa si può fare adesso in previsione dell'autunno. Oggi, per iniziare la nuova stagione sulla gestione dell'orto, poniamo l'attenzione sulle varie lavorazioni e attività che ci riserva questo periodo. Settembre è un mese di transizione tra le colture a ciclo primaverile-estivo e quelle autunnali. Si possono infatti trovare ancora nel nostro orto pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli e zucchine. In particolare questi ultimi due ci garantiscono un raccolto fino alle prime gelate. Si prosegue la raccolta delle patate, che bisogna però fare attenzione perché le temperature sono ancora alte. Se si raccoglie tutto il prodotto non è garantita la loro idonea conservazione. perciò sarebbe meglio attendere ancora un pochino quando il clima si stabilisce a livelli più miti. I fagioli e i fagiolini si presentano molto più sani e con buone produzioni rispetto a quelle degli scorsi mesi, in quanto le temperature sono più basse e le piante sono in grado di crescere e portare a maturazione i prodotti, senza incorrere nel pericolo di cascole e dei fiori. Quest'estate ha messo a dura prova tutti gli orti domestici, ma anche molti orticoltori, perché oltre alla mancanza di acqua si sono registrate temperature molto alte per un lungo periodo, portando al mancato raccolto per molteplici colture. In questi casi l'uomo cerca ovviamente, secondo le possibilità, di coltivare le piante al meglio, ma non sempre daranno la risposta desiderata, in quanto l'ambiente che le circonda è costituito da una molteplicità di fattori che interagiscono tra loro. Non bisogna però da scoraggiarsi e continuare con una maggior consapevolezza nei confronti delle interazioni con la natura. Roberto Zottar per la rubrica della gastronomia inizia con questa puntata ad occuparsi di cibi tradizionali che vanno scomparendo. Oggi ci propone gnocchi di susine. Oggi parlerò di cucina della frutta e di un piatto che non è scomparso ma è cambiato. Parlare di cucina della frutta sembra un ossimoro o è una contraddizione, perché cucinare è manipolare, modificare, trasformare è cultura, mentre frutta è freschezza e spontaneità. Se nella gastronomia salata in Italia la frutta è quasi scomparsa, forse perché è venuto meno il gusto dell'agrodolce, ciò non è vero per gli abitanti delle nostre zone, eredi di molti secoli di dominazioni straniere. La nostra gastronomia è un'insolita contaminazione di aromi e gusti, dove l'influsso nordico del gusto agrodolce porta alla presenza di frutta in cucina, non solo nei dolci. Tra le tante ricette salate con frutta, credo che la più emblematica sia quella degli gnocchi ripieni di frutta. Il piatto, giunto in zona per differenti cammini, viene chiamato gnocchi de susine, gnocchi o macarons cui brundui oculis espis, Zwetschen Knödel, slivovi gnocchi, in vero un fagottino di pasta di patate che racchiude una susina denocciolata. L'ingombro del frutto deve essere uguale a quello della pasta per un perfetto equilibrio di sapore. Si preparano, per antico influsso boemo, anche con pasta lievitata ricca di uova e burro o con un impasto a base di ricotta o con pane raffermo e lievito. Forse queste sono anche le versioni più antiche, dato che le patate sono arrivate in Friuli solo nel 1765. Gli gnocchi sono stagionalmente declinati anche con ripieno di pesche, di ciliegie, di albicocche o di fichi e sono da sempre un primo piatto della tradizione. Ho detto che un piatto cambiato perché oggi è invalso l'uso di aggiungere zucchero, sia nel ripieno sia sparso sopra insieme a cannella e pan grattato. Questa è una cosa molto recente, appunto perché ci siamo disabituati all'agrodolce e compensiamo l'acido con lo zucchero. Gli gnocchi di susine o di frutta, come ci ricorda anche Medifast, erano il classico accompagnamento della cacciagione, proprio come ora si abbina la composta di mirtilli rossi al capriolo. Cuocete in acqua 1 chilogrammo di patate da gnocchi, sbucciatele e passatele ancora caldo allo schiacciapatate. Aggiungete un tuorlo e farina a quanto prende, saranno circa 250 grammi. Snocciolate le susine, prendete una porzione di pasta, stendetela nel palmo e racchiudete la susina. Bollite in acqua salata e condite con abbondante pan grattato passato nel burro e spolverate di cannella. Lasciate stare lo zucchero. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, con prezzi del mais cedenti. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 34,70 e 35 euro al quintale, IVA esclusa. Il frumento tra 35,50 e 36 euro. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 31,40 e 31,90. Rispetto ad un anno fa, il mais è aumentato di 10 euro al quintale e il frumento di 11,30. Stabile l'andamento dei bovini nel macello. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto fra 3,20 e 3,70 euro al chilo IVA esclusa, quelli seconda fra 2,60 e 3,20. Pressoché stazionarie anche le contrattazioni nel settore dei vitelli da ristallo, dove i Blubelga maschi vengono quotati tra 6,20 e 6,70 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 4,80, i frisoni tra 2,10 e 2,40, i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Mercato con dinamiche rivalutative nel comparto suinicolo, con i lattonzoli di 30 kg quotati franco partenza a 3,17 euro al chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 1,95. Facendo un raffronto con prezzi di un anno fa, i lattonzoli sono aumentati di 64 centesimi e i grassi di 39 il chilo. Infine, scambi attivi con prezzi in aumento nel settore degli avicunicoli. Il valore dei poli a terra varia tra 1,47 e 1,49 euro al chilo IVA esclusa, le anatre tra 3,56 e 3,60, i tacchini maschi tra 2,15 e 2,17 e i conigli oltre 1,5 kg da 2,58 a 2,64 e le uova oltre 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante e più un breve contributo di climatologia locale. Il mese di settembre inizia con una notte di temporali, pioggia e fresco, seguita da bora fino a 90 km orari a Trieste e poi sostenuta per tutto il giorno sulla costa. Ciò porta a un raffreddamento importante delle acque superficiali dell'Alto Adriatico. L'episodio contribuisce ad attenuare la siccità in modo importante, soprattutto a breve termine. In seguito torna sostanzialmente l'estate fino al 7, con prevalenza di sole e temperature massime in pianura di nuovo a 30 gradi, specie tra il 5 e il 6, con una risalita delle temperature del mare. Anticipato da una serie di temporali nella notte tra il 6 e il 7, il cambio di passo tra estate e l'autunno avviene tra il 7 e il 10, quando una vasta depressione atlantica si muove verso sud e convoglia correnti sud-occidentali sul nord Italia, specie sull'Alto Adriatico. Così il 7 si ha variabilità, con qualche pioggia al mattino e una prima leggera diminuzione delle temperature, mentre dal giorno 8 un fronte più definito accentua il richiamo di correnti mediterranee verso la regione, con conseguenti temporali e piogge anche molto intense, specie sulla costa, dove l'interazione tra lo scirocco e l'aria fredda in discesa dei temporali ne ha alimentato uno cosiddetto autorigenerante, capace di lasciare al suolo 162 mm di pioggia a grado in 3 ore, 87 a Trieste, quasi 150 sul Carso, tutti dati da record storico, con allagamenti importanti specie a grado, dove un episodio di pioggia così intensa in 3 ore non si è mai registrato in precedenza. Valori oltre i 100 mm si registrano anche ad Aquileia e Monfalcone, a corollario di un evento senza dubbi di assoluto rilievo storico, cui ha contribuito il mare molto più caldo del normale, è una dinamica peraltro già capitata, e che spesso a settembre-ottobre determina alluvioni lampo tra pianura e costa. Anche la pianura ha avuto il passaggio di un sistema temporalesco forte, ma non c'è stato il carattere di persistenza avutosi sulla costa, mentre ben più scarse sono state le piogge in montagna e nell'alto pordenonese. L'azione della depressione permane anche il 9 con ulteriori temporali sempre più frequenti e intensi sulla costa, 48 mm l'un'ora a Lignano, anche se in genere inferiore rispetto al giorno precedente, per la mancanza di un contributo sciroccale significativo. Il 10 l'instabilità si riduce, si hanno episodi meno significativi, mentre le temperature sono scese a valori normali per la stagione e le correnti in quota sono diventate più settentrionali. In sintesi, nella prima decade le piogge sono state scarse in montagna e sulla pedemontana, nella norma in pianura, eccezionali invece sulla costa e sulla bassa pianura. Venendo alle previsioni, la settimana inizierà con tempo stabile e temperature in aumento. Da segnalare che lo zero termico entro mercoledì supererà i 4.000 metri, mentre le temperature massime in pianura potranno raggiungere i 28 gradi. Giovedì una vasta depressione atlantica si avvicinerà all'Italia, innescando un flusso sud-occidentale a tutte le quote, con piogge anche abbondanti, più intense sulle zone orientali, con temperature ancora piuttosto miti. Tra venerdì e sabato aria fredda nord-atlantica potrebbe scavalcare le Alpi, portando dei temporali e poi un deciso calo termico nel fine settimana, accompagnato da bora sostenuta sulla costa. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Alla Dolorade la uva va vendemade, ovvero per il giorno della Madonna Dolorata, il 15 settembre, la uva va vendemiata. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail levitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monella, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.